Non solo sesso. Leggo nella Bibbia nel Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetti 1 a 4. Il Cantico dei Cantici di Salomone. Mi baci egli dei baci della sua bocca, perché le sue carezze sono migliori del vino. I tuoi profumi hanno un odore soave, il tuo nome è un profumo che si spande. Perciò ti amano le fanciulle. Attirami a te. Noi ti correremo dietro. Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti. Noi gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te. Noi celebreremo le tue carezze più del vino. Ha ragione, sei amato. Ancora, capitolo 4, versetti 12, 13 e 16. Oh, mia sorella, o sposa mia, tu sei un giardino serrato, una sorgente chiusa, una fonte sigillata. I tuoi germogli sono un giardino di melagrani ed alberi di frutti deliziosi, di piante, di cipro e di nardo. Sorgi, vento del nord, e vieni, vento del sud. Soffiate sul mio giardino, perché se ne spandano gli aromi. Venga l'amico mio nel suo giardino e ne mangi i frutti deliziosi. Capitolo 5, versetto 1. Sono venuto nel mio giardino, mia sorella, o sposa mia. Ho colto la mia mirra e i miei aromi. Ho mangiato il mio favo di miele. Ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Il Cantico dei Cantici di Salomone non è un libro facile da leggere perché non è scritto in maniera cronologica, ma è un idillio amoroso in cui vengono presentate, in ordine sparso, scene appartenenti a diversi periodi, il giorno del matrimonio, la camera nuziale, la prima notte di nozze, il corteggiamento, eccetera. Inoltre il libro utilizza immagini familiari ad un lettore del mondo medio orientale dell'epoca, ma non sempre comprensibili al lettore occidentale di oggi. L'argomento del libro mette inoltre a disagio alcune persone, sorprese di trovare nella Bibbia descrizioni, anche con particolari piuttosto spinti, del rapporto anche sessuale tra un uomo e una donna. Per questo motivo spesso si tende a mettere in evidenza solo l'applicazione spirituale del libro, evidenziando le analogie con il rapporto tra Cristo e la Chiesa. Sebbene sia un'applicazione importante, non bisogna sminuire il valore del libro proprio per gli insegnamenti riguardanti il rapporto tra un uomo e una donna all'interno del matrimonio. Il Cantico dei Cantici comincia proprio con le parole che abbiamo letto, l'esclamazione della sposa che nel giorno del matrimonio si prepara ad essere condotta negli appartamenti dello sposo, anticipando con il pensiero tali momenti. Ella pensa al momento in cui lo sposo la bacerà, la accarezzerà, insomma si unirà a lei. Essa guarda con attesa trepidante alla prima unione sessuale che l'aspetta. Nel secondo brano, essa è paragonata dallo sposo ad una sorgente chiusa, ovvero una vergine, pronta ad aprire il proprio giardino, allusione al proprio corpo, al suo sposo. Ella invita lo sposo ad andare in quel giardino a coglierne i frutti deliziosi. Nell'ultimo verso che abbiamo letto, lo sposo è felice dopo essersi recato nel giardino, quindi dopo l'unione sessuale con la sua sposa. Il coro conclude la sezione con l'affermazione che incita lo sposo e la sposa nella loro unione. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Come dicevo, alcuni potrebbero essere turbati nel leggere queste parole. Purtroppo, infatti, ci sono due atteggiamenti opposti nei confronti del sesso. Da una parte la pornografia, sempre più diffusa, svilisce il sesso, trasformandolo quasi in semplice esercizio ginnico, privato della componente più importante che dovrebbe accompagnare l'unione sessuale, ovvero l'amore. Dall'altra, per reazione a questa mercificazione del sesso, ci sono molti cristiani che hanno quasi paura a considerare il sesso come una parte normale della vita matrimoniale e tendono a considerarlo poco importante. Purtroppo l'uomo ha reso il sesso qualcosa di sporco, al punto che non sappiamo più apprezzare il sesso vissuto come un dono di Dio per la coppia e siamo addirittura a disagio a parlarne, vero? Ciò che emerge dal Cantico dei Cantici è uno splendido equilibrio. In esso infatti viene esaltato l'amore profondo che unisce un uomo e una donna attraverso sentimenti profondi, ma anche attraverso il piacere sessuale all'interno della vita di coppia. E tutto questo è vissuto nel modo giusto all'interno del patto matrimoniale. Nella Bibbia il sesso è una componente fondamentale del patto matrimoniale. Esso è fondamentale per la procreazione, ma anche per il mutuo piacere che deriva dall'unione sessuale stessa. Tuttavia l'amore che si esprime nell'unione sessuale fisica perde tutto il suo significato se non è accompagnato dalla volontà di amare l'altro, rispettando il patto. L'amore che si esprime nel sesso dovrebbe essere espressione del sentimento che lega i due partner, nonché dell'impegno reciproco che essi hanno preso l'uno verso l'altro, unendosi in un patto. Il sesso praticato senza un impegno verso il partner viene praticato solo per la propria soddisfazione, non quella dell'altro, diventando semplice lussuria, soddisfazione di istinti primari. D'altra parte, cosa spinge milioni di uomini e donne, come confermato dalle statistiche, a passare il loro tempo davanti ad immagini pornografiche? Che Dio ci guidi a recuperare il giusto equilibrio nel considerare queste cose, nel comprendere la bellezza del sesso come dono di Dio vissuto con gioia all'interno del patto matrimoniale. Al di fuori di esso, si tratta solo di un appagamento di istinti che portano a cercarne sempre di più, ovunque, con chiunque, senza mai poter essere soddisfatti davvero.